Vi sembrerà strano, ma l'altro giorno, mentre vagavo mezzo allocchito nel gran calderone della città prenatalizia, pensando con un vago senso d'angoscia ai vari impegni incombenti, i regali, le trattative con i parenti, gli amici, i familiari, il lavoro, le scadenze di lavoro da sbrigare prima del blackout festivo e via dicendo, sono riuscito a sentirmi per un momento vagamente commosso. È successo al piano terreno di un grande magazzino di fronte all'esposizione delle statuine del presepe. Non che avessero qualche specifica qualità poetica o commovente, sia ben chiaro, è solo che mi sono accorto che più o meno erano quasi le stesse di quando ero bambino io, in plastica invece che di cartapesta, dipinte di orribili tinte sgargianti invece dei colori sommessi che stazionavano nella mia memoria, ma indubbiamente le stesse, o quasi. C'erano i pastori, naturalmente, con annesse pecore e con una grande quantità di pollame, non ho mai capito perché nei presepi ci sono tanti polli, i venditori di cardarroste, che è un tipo, una figura di artigiano imprenditore di cui certo i palestinesi del primo secolo avanti e dopo Cristo non potevano fare a meno, la guardiana delle oche, la ragazza che attinge al pozzo con l'anfora, il fabbro che batte sull'incudine, il vecchio claudicante che s'appoggia a un giovanotto presumibilmente figlio o nipote e scruta in lontananza facendosi schermo agli occhi con le mani, il giovanotto un po' sgarzolino con un agnello sulla spalla, il pescatore con la lenza, il falegname con la sega, i re magi ovviamente, da collocare la notte di Natale a una delle estremità della composizione da fare avanzare poco per volta nei 12 giorni successivi, la Madonna, così bellina in rosa e celeste, San Giuseppe, e una specie di vestaglia viola spento che ben s'addice a un neopadre putativo. Insomma, erano proprio loro, e per un momento mi sono sentito commosso come suppongo succeda a tutte le persone di una certa età che ritornano con la memoria al lontano passato. Poi, scattando i meccanismi di autocompensazione che precludono le melanconie, uno si pone problemi culturali, si dice chissà chi ha modellato per la prima volta, presumibilmente in gesso, quelle figurine, da cui per chissà quante generazioni imprenditori industriosi, anche se un po' approssimativi, hanno ricavato calchi su calchi a ripetizione. L'iconografia, diamoci un po' di arie, l'iconografia ha una certa impronta vagamente da tardo 700 primo 800, ricorda un po' le figure dei quadri di Salvador Dalì o delle stampe di Pinelli. I costumi fanno chiaro riferimento all'Italia meridionale, con quei cappellucci a tronco di cono con la falga larga, le camicie aperte infilate in vita in una fascia colorata, manca solo per ovvi motivi di placentera agli uomini di buona volontà il tradizionale coltello, i pantaloni stretti a mezzo polpaccio sulle gambe nude. Con tutte le ricerche inutili che si fanno al giorno d'oggi, se qualcuno indagasse sulla storia delle figurine del presepe, non dei presepi barocchi o di Capodimonte, ma quelle che normalmente si trovano nei grandi magazzini, forse potrebbe dirci qualcosa di molto gustoso sulla nostra storia culturale. Ma naturalmente in tempi in cui il modello di critico d'arte ideale rappresentato dall'onorevole Sgarbi non c'è molto da sperare. Tutto qua. Un momento passeggero di commozione, un paio di riflessioni sconclusionate e poi via di nuovo a testa bassa nell'ambaradan prenatalizio. Ma quanto basta per essere grati alle belle statuine che hanno portato un illusorio soffio di problematica culturale in questo grande casino festivo. Non è un dono da poco. E non crediate poi che le belle figurine siano prive di significato ideologico evidente. Esprimono una concezione delle festività natalizie estremamente avanzata e liberale. Pensateci un momento. Per l'ignoto genio che ha concepito quell'insieme, la notte della Natività, a parte pochi pastori adoranti che non interessano a nessuno, era affollatissima di venditori di cardarroste, di pescatori, di fabbri, di falegnami, di guardiani di oche, di più chi più ne ha più ne metta, tutta gente che, come chiunque, cercava di farsi i fatti propri, come ci auguriamo e vi auguriamo, cari ascoltatori, di riuscire a farvi anche voi in queste settimane a venire. Arrivederci.